sono argomenti specifici, singoli temi che hanno bisogno di qualche maggiore attenzione. Quello della sicurezza è uno di questi, ma non tanto per la politica nazionale, che in verità aveva affrontato il tema, il ministro Amato aveva promosso insieme al viceministro Minniti anche confronti con le città per individuare azioni efficaci, soprattutto con le aree metropolitane, in modo tale da prevenire e da contrastare ogni forma di piccola o grande criminalità. E il tema è molto acuto a livello del singolo territorio, perché si definisce con elementi uniformi e a volte con elementi invece profondamente diversi. Forse il bisogno di riflessione è più territoriale che nazionale. Bisogna fare questo sforzo, considerando la sicurezza per quello che è un fondamentale diritto di cittadinanza che deve essere garantito alle persone, al di là del carattere dell'amministrazione o del governo che in quel momento ha la responsabilità primaria. Ecco, ma lei pensa che così su questo tema c'è stata una voce un po' debole, oppure non ci si è fatti capire bene? Perché effettivamente un po' questa percezione anche a Roma c'è stata, adesso poi magari c'erano anche altri motivi, però si ha un po', come dire, l'impressione di un tema sì sentito ma non come prioritario. In qualche territorio è stato così. Le dicevo, io non credo che ci sia stata una sottovalutazione nazionale, perché le azioni promosse nazionalmente erano azioni visibili, dal mio punto di vista anche condivisibili. Ci sono state incertezze nei singoli territori, non sempre all'affermazione di principio poi corrispondevano delle azioni sufficientemente efficaci oppure coerenti con l'affermazione dalla quale si partiva. Occorre lì ritornare, verificare in ogni territorio quali sono le condizioni primarie per garantire la sicurezza alle persone, per evitare che ci siano atti violenti, negativi contro la persona o contro la proprietà. E prevenire è fondamentale, ma non bisogna avere il timore di promuovere azioni repressive quando la prevenzione non è stata sufficiente oppure non è stata possibile. Ecco, oggi a Vicenza per esempio il neosindaco Variati ha così diciamo deciso il pugno di ferro sulla questione dell'espulsione dei nomadi con precedenti penali. C'è stato un po' di dibattito stamattina per questa misura. Lei cosa ne pensa? È il caso classico al quale facevo riferimento prima. Ogni territorio può avere delle emergenze e dunque essere chiamato il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione a promuovere delle azioni volte a risolvere l'emergenza. Contano moltissimo due cose: un'idea complessiva di come gestire i temi della sicurezza e della legalità e dall'altra parte poi delle azioni efficaci che corrispondono anche alle diverse e differenti condizioni che ogni territorio ha. Io credo che nessuno abbia il dovere e d'altra parte il diritto di intervenire più degli amministratori locali, che conoscono il loro territorio e dunque sanno quale può essere l'azione più rapida e più efficace. Penso anche che quando guardiamo i territori dobbiamo mettere in premessa che serve molta flessibilità nelle azioni da intraprendere e non è affatto scontato che la stessa azione possa essere efficace in un luogo o in un altro non lontano, dipende molto dalla tipologia del problema che devi affrontare. Un'ultima cosa sulla sicurezza: l'utilizzo dei vigili urbani per questi problemi, lei è d'accordo? Ma guardi, io credo che occorra fare una netta distinzione tra le polizie di Stato e la polizia municipale. La polizia municipale, il compito di prevenire, il compito di reprimere e il compito di controllare il territorio sono delle polizie di Stato. La polizia municipale ha le sue antiche e tradizionali funzioni e competenze che si integrano, perché in qualche circostanza può esercitare azioni di contenimento repressive, sono quelle previste dalla legge. In qualche circostanza, anzi spessissimo, ha il compito e le funzioni di controllare il territorio. Quello che conta moltissimo è ciò che avevamo scritto anche nell'accordo firmato dalle aree metropolitane con il precedente ministro degli interni, che spero venga mantenuto come azione, che è quella dell'iniziativa comune, per la banalissima ragione che stanno insieme le polizie di Stato con la polizia municipale, sono in grado di agire secondo le proprie competenze senza scavalcarsi, ma segnalandosi reciprocamente gli ambiti delle azioni necessarie. Insieme si vede meglio, si agisce con più celerità, con maggiore efficacia. Ecco, questo lavoro comune secondo me è il punto fondamentale. Poi le polizie di Stato da sole non bastano, ovviamente ancora di più non è sufficiente la sola polizia municipale, bisogna farli intervenire insieme.